Stando in fish. Come Radio Rio Matonari. Una emisora che tende al progresso e del progetto della società politica e quadrilla. Transmitendo in Corona Santiago, in Santa Cruz. In l'atto di comunicazione e di